Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La legna può essere, ed anzi già è, un prezioso alleato nella lotta ai cambiamenti climatici. Le sue emissioni di CO2, infatti, come è noto, sono controbilanciate dalla CO2 assorbita dalla pianta nel corso della crescita e quindi virtualmente nulle. Ma altrettanto non si può dire di altre emissioni inquinanti, come il benzopirene, per esempio, e il particolato, il famigerato PM10, che ha appestato l'aria delle città italiane durante tutto l'inverno, soprattutto quelle della pianura padana e dei fondovalle. La diffusione di stufe e caldaie a pellet, che è cresciuta molto negli ultimi anni, ha fatto sì che proprio queste siano state incolpate del superamento così frequente, insomma, delle soglie di inquinamento. Tuttavia ci sono ragioni per dubitare, diciamo così, che questa correlazione fra i due fenomeni sia così semplice: più stufe, più biomassa, più inquinamento. E allora cerchiamo di fare un po' di ordine con l'aiuto di Giuseppe Tommasetti, che si è occupato a lungo di queste tematiche in Enea fino a qualche anno fa ed è attualmente vicepresidente della FIRE, Federazione Italiana per gli Usi Razionali dell'Energia. Buonasera Tommasetti. Buonasera. Allora, intanto ricordiamo quali sono le emissioni dei vari apparecchi di combustione, insomma. Prendendo a riferimento un documento ARPA Lombardia, indicando i dati del PM10 in grammi a gigajoule, cioè sì, grammi per 20 kg di petrolio equivalente, abbiamo fra i 1.800 per i fuochi, il cammino tradizionale aperto. Fra 1.800? Sì, fra 800 e 1.000. Ok, grammi, abbiamo perfetto. Attorno a 500 per una stufa tradizionale a legna, abbiamo fra i 300 e i 400 per un camino chiuso o con inserto, abbiamo un valore simile per le stufe e le caldaie, mentre si scende per impianti a pellet o per impianti a cippato con caricamento automatico, con la legna, con le migliori. Quindi le stufe a pellet e le caldaie, diciamo, a pellet o a cippato, sì? Di migliore tecnologia si scende sui 70-80. Perfetto, ecco, quindi poi, da 800 a 80. Il confronto, il gasolio, ecco, c'ha circa 5, il metano c'ha circa 1 e le grandi caldaie dei piani di riscaldamento c'hanno 2-3 perché c'hanno i filtri elettrostatici o a manica. Ecco, questo è importante, cioè mentre insomma un camino aperto produce, abbiamo detto, 1.000 grammi più o meno, no, di questi inquinanti a parità di biomassa, una di queste centrali a biomassa con tutti i filtri, che sono quelle che ci spaventano di più, in realtà ne producono 3, quindi ci dobbiamo preoccupare più del camino del vicino, probabilmente del camino aperto, che della centrale a biomassa, e questa è una roba importante e l'abbiamo detta. Ecco, però è evidente che comunque una stufa pellet emette 70 volte più di una caldaia a metano e quindi veniamo a questa questione del bilancio, non più delle emissioni dei singoli apparecchi, ma del bilancio di particolato, allora, da parte delle biomasse, che è un po' più complicato invece, no? Sì, questo è molto più complicato perché ci sono due fenomeni che si sommano. Da una parte la legna si usava fino agli anni 50, si usava solo la legna per scaldarsi, si è sempre usata nelle campagne e nelle case isolate senza che fosse mai entrata nelle normative e nei calcoli di efficienza. Poi in questi ultimi anni la legna ha avuto un processo di meccanizzazione nelle caldaie, da pellet o a cippato, che hanno ridotto il carico, io li chiamavo caldaie a nonno, perché cioè voleva il nonno seduto davanti, ogni tanto metteva dentro il pezzo di legna, certo. Meccanizzando il tutto sono diventate più comode, si sono diffuse anche in città con funzioni integrative, c'è la stufa nella stanza dove si trascorre più tempo sostanzialmente, no? E si vuole stare un pochettino più caldi. Senza dover scaldare tutta la casa. La quantità della legna bruciata in Italia, da vecchie indagini fatte negli anni 80, 90 e poi ultimamente formalizzate dall'Istat, sono attorno alle 6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, circa 20 milioni di tonnellate di. Ecco, però legna. Abbiamo avuto un grande aumento nel consumo del pellet negli ultimi anni. Il pellet è aumentato da 500.000 a 1.500.000, quindi rispetto al totale della legna da ardere e non dimentichiamo anche tutta la legna bruciata nelle campagne. Nelle campagne. Ecco, cioè, il problema è questo, che da una parte noi abbiamo un aumento consistente della biomassa bruciata registrata, perché i pellet in qualche modo viene calcolato quanti se ne importano, producono e bruciano. Chiaro. Dall'altra parte, questi apparecchi in molti casi hanno sostituito, questo è il punto, no? Mi sembra di capire, dei vecchi camini molto inquinanti, 800 grammi contro 70 della stufa a pellet, abbiamo detto. Chiaro. Che consumavano una legna non registrata, di cui non si teneva traccia, per cui non è detto che la diffusione delle stufe stia facendo aumentare il particolato, potrebbe addirittura farlo diminuire, a seconda che sostituisca un vecchio camino o invece sostituisca una caldaia, nel quel caso è peggiorativa la cosa. È difficile fare i conti qui, questo è il problema. È molto difficile fare i conti, anche perché uno dei motivi per cui si è reso evidente oggi questo fenomeno è che il valore della percentuale di PM10 delle nostre città è molto diminuito negli ultimi anni. Sono stati fatti tutti gli interventi sulla combustione, sulle automobili, sul traffico, il metano è andato a posto del carbone nelle città. E quindi le emissioni della biomassa sono tornate a essere rilevanti. Va bene, grazie Tommasetti, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.